Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Niente audio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, come di consueto, con iniziare magari con un po' di simpatia, perché purtroppo domina una notizia che è arrivata in serata, la forte scossa di terremoto alle 19:11 che ha colpito buona parte del centro Italia, è stata sentita da Roma a Norcia con l'epicentro nella provincia di Macerata, quindi cercheremo di raccogliere tutte le notizie possibili, gli aggiornamenti su quello che sta avvenendo. Per il momento sembra che ci siano solo due feriti, non ci siano quindi morti, ci sono stati crolli, naturalmente è tornata la paura, però vi racconto subito in sintesi, ci sarà spazio anche per le altre notizie, ma insomma man mano seguiamo quello che succede, anche grazie ai colleghi e anche agli esperti che raggiungeremo e ai sindaci magari dei luoghi colpiti. Terremoto, forte scossa in centro Italia di 5,4 gradi, torna la paura da Amatrice con nuovi crolli. L'epicentro nella provincia di Macerata, nelle Marche, nella zona sono saltate le linee elettriche. Abbiamo un grosso problema sulla Salaria, la chiuderemo all'altezza di Arquata, dice il dirigente della Protezione Civile delle Marche, Cesare Spuri. La valutazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto è collegato a quello avvenuto il 24 agosto nel Reatino. Scene di panico a Visso in provincia di Macerata, panico e crisi di pianto tra la gente che è fuggita dalle case dopo la forte scossa di terremoto. E poi gli altri titoli, grandi opere, ancora corruzione, appalti truccati, 30 arresti per la TAV Genova-Milano e per la A3. Roma, la sindaca Raggi sui frigoriferi abbandonati in strada, dice il recupero ingombranti è interrotto da giugno e non sappiamo il perché. Manovra economica, il commissario europeo Moscovici tende una mano all'Italia e dice sì al dialogo. Migranti, 2016 è l'anno più letale per i migranti che hanno tentato di attraversare il Mediterraneo, lo dice l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati. Pakistan, arrestata la ragazza afghana dagli occhi verdi del National Geographic per documenti falsi, immortalata dalle foto di Steve McCurry. Alla notizia, il fotografo fa sapere che intende aiutarla finanziariamente, dice ha sofferto troppo nella vita. Per il calcio, turno infrasettimanale di Serie A, Inter Torino decide il destino di De Boer. Partiamo quindi inevitabilmente, scusate, da questa forte scossa di terremoto di magnitudo di 5,4 gradi, vi dicevo, che è stata avvertita intorno alle 19:11 minuti questa sera in buona parte del centro Italia, da Roma a Rieti, a Pescara, all'Aquila, Perugia, Assisi, a Macerata, e l'epicentro è stato proprio in provincia di Macerata, a Castel Sant'Angelo sul Nera, mentre naturalmente è tornata la paura, in particolare nei centri già colpiti lo scorso 24 agosto, la buona notizia che arriva dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco è che non risultano morti, fino a poco fa neanche feriti, ce ne sarebbero però due, e sentiamo Maria Luisa Pezzali. Maria Luisa. Sì, buonasera Roberta. Sì, abbiamo avuto notizia di due feriti a Visso, uno dei comuni della Valnerina nell'area appunto dell'epicentro, uno dei quali è rimasto leggermente ferito in seguito al crollo di un controsoffitto. Al momento appunto nessuna notizia di vittime, però Protezione Civile e Vigili del Fuoco precisano che le verifiche sono ancora in corso. La scossa magnitudo 5.4, come ricordavi tu, l'orario le 19:11, le province colpite sono quelle di Macerata e Perugia, epicentro appunto Castel Sant'Angelo sul Nera, che è in provincia di Macerata, e poi vicinissimi all'area dell'epicentro ci sono i comuni di Visso, Ussita, Norcia e Preci. Scossa avvertita però in tutto il centro Italia, soprattutto Marche e Umbria ovviamente, ma molto forte è stata avvertita anche a Roma, dove tra l'altro la Farnesina, Roberta, è stata evacuata al momento della scossa, il personale è stato fatto uscire nel piazzale antistante. E vedevo tra l'altro Maria Luisa che adesso stanno facendo anche delle verifiche del Ministero dei beni culturali, stanno verificando i danni al patrimonio, perché sappiamo che purtroppo si ripete in quelle zone dove ci sono tanti borghi storici, no? Dove ci sono case, costruzioni, anche monumenti. Sì, ovviamente la preoccupazione è, come sempre, una volta accertato appunto la presenza di feriti e crolli gravi, e poi la preoccupazione per questa tipologia di territorio che quindi ha molti edifici sensibili da questo punto punto di vista. Anche a Roma comunque si sono formate delle crepe in seguito alla scossa e gli stabili interessati sono nelle zone Nomentano ed Eura e sono in corso proprio le verifiche dei vigili del fuoco. Senti Maria Luisa, tu hai raggiunto, no, un sindaco di quei luoghi? Sì, lo abbiamo fatto subito dopo la scossa. Il sindaco è il sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera. Lo abbiamo sentito proprio esatto, quindi. L'epicentro. Mauro Falcucci ci ha raccontato appunto nell'immediatezza della paura della zona completamente buia e della ricerca di eventuali feriti sotto le macerie. Sentiamo il suo racconto. Sto facendo un giro per le frazioni, sta succedendo che non c'è luce e sta piovendo. Piovigina e c'è stata una scossa di 5-4, te le devo dire. Ci sono stati i crolli? I crolli sì, stiamo vedendo dei muretti, ovviamente non riusciamo a fare una ricognizione corretta perché non vediamo, però stiamo cercando di contare le persone per smettere, per fare una meno la cosa più importante della di domani, gira che andiamo in giù. Sto su una frazione, ovviamente c'è poca gente, vediamo di... Ritorna degli occhi, che le devo dire? Niente, aspettiamo che ci arrivi qualcuno. Con calma, siamo davanti alla piazza del comune, io sto facendo un giro per le frazioni. La gente è in strada, sindaco? Sì, tutti in strada, ma è stata molto molto forte, 5.4. Io eravamo con i tecnici in comune, siamo rimasti dentro perché era peggio uscire, poi siamo usciti, nel senso che come è previsto a ritardo, ci abbiamo provato, cioè tanto... C'è paura e dolore, non so manco io più quello che c'è. Guarda. Le strade, sindaco, funzionano? Nelle strade non lo so, so che ci sono delle interruzioni da qui a Visso, ci sono dei sassi per strada, sta arrivando credo il supporto della protezione civile, stiamo aspettando, io sto facendo una ricognizione sul territorio. Al momento non avete ovviamente segnalazioni di... No, di feriti, al momento non ci ho avuto nessuna segnalazione e contiamo Dio di non averne, perché non siamo molti, speriamo in quello. Maria Luisa, tra l'altro appunto chiedevi se le strade sono agibili, anche perché è arrivata la notizia forse mezz'ora fa, no, della chiusura da parte della Protezione Civile delle Marche di una parte della Salaria, che è la strada che congiunge Roma alle Marche, no? Sì, certo, la Protezione Civile parla appunto di chiusure precauzionali nelle zone appunto colpite dalla scossa, proprio per evitare il rischio che vadano ad intasarsi e in qualche modo possano ostacolare i soccorsi. Dalla redazione, Roberta, mi segnalano un'altra importante testimonianza, se sei d'accordo la certo. Manderei subito in onda. Si tratta di un ristoratore di Visso, che lo abbiamo detto è uno degli altri comuni proprio nell'area dell'epicentro, si chiama Umberto Maria Conversano, ha raccolto la sua testimonianza. Daniele Zinni. Io ero nello studio del mio commercialista, stavo uscendo proprio, ero per le scale, è stata una cosa... terrificante, guarda. Poi sono andato a casa, mia moglie mi ha chiamato che c'erano le mura che lesionate, era terrorizzata, insomma. Poi noi abitiamo al terzo piano, quindi si immagini quello che poteva essere. Fino a domattina nessuno saprà la reale entità. Adesso io sto andando vicino Frontignano, c'è una persona che era sola da poco operata, mi ha chiamato terrorizzata, adesso la sto andando a prendere per portarla giù nel mio ristorante che è al piano terra, se non altro lì si sta abbastanza sicuri. Questa è la testimonianza da Visso, Maria Luisa. Tra l'altro è a Visso che ci sono quelli che speriamo siano gli unici due feriti di cui si ha notizia finora, no? Sì, al momento la notizia appunto di queste due persone. Tra l'altro stanno arrivando nei comuni colpiti le squadre di soccorso, in particolare a Castel Sant'Angelo sul Nera stanno portando anche delle torri faro, dato che lo abbiamo sentito la zona è rimasta completamente al buio. Bisogna ricordare, Roberta, che queste sono comunque zone molto vicine a quelle del sisma del 24 certo. agosto scorso, quindi in questi stessi comuni molti edifici erano già stati gravemente lesionati da quel sisma, quindi insomma si può immaginare quanta la paura, insomma, con che forza abbia colpito questa sera queste popolazioni. E tra l'altro gli esperti precisano che il sisma di questa sera è strettamente collegato alla scossa del 24 agosto. Ecco, io a questo punto proporrei la spiegazione proprio del sismologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Alessandro Amato, ci spiega perché è correlato a quella scossa. Ha avuto magnitudo 5.4 ed è avvenuto nella zona al confine tra la provincia di Perugia e di Macerata, in particolare zona di Castel Sant'Angelo sul Nera, Preci, Visso, questi sono i comuni più vicini. ed ha interessato una zona subito a nord della zona attiva della struttura, che era, si era attivata già da partire dal 24 agosto. Quindi è una scossa collegata a quella del 24 agosto? Beh, direi di sì, è proprio nella zona appunto che era già attiva da alcune settimane, e era un po' uno dei rischi che ci sono in questi casi, è che si attivino altre faglie vicine, altre strutture adiacenti. E infatti, Maria Luisa, come dice appunto il sismologo, altre notizie, arrivano aggiornamenti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dicendo che il terremoto di oggi ha perturbato ulteriormente il volume crostale e nelle prossime ore sono possibili altre scosse, perché quelle del sisma di oggi potrebbero sommarsi a quelle del proseguimento della perturbazione del 24 agosto, quindi insomma... Esatto, si parla proprio di nuove repliche anche raddoppiate, questa è appunto un po' l'allerta che manda in questo momento l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E crolli, Roberta, si sono verificati anche negli edifici già lesionati, ovviamente ad Amatrice, lo ricordiamo, proprio l'epicentro del sisma del 24 agosto, sono saltati anche ad Accumoli i collegamenti telefonici, è mancata anche qui l'energia elettrica, poi è stata ripristinata e appunto i crolli si sono verificati proprio all'interno della zona rossa di Amatrice. Grazie Maria Luisa Pezzali, poi ci risentiamo dopo per certo. Gli aggiornamenti. Grazie. A dopo con Maria Luisa. E anche se la cittadina di Amatrice è ormai deserta, il comune copre 175 chilometri quadrati, la popolazione si è spostata sulle coste e nelle 69 frazioni dove vivono 117 famiglie, 364 persone, i soccorsi le stanno raggiungendo. Tra di loro c'è Gabriele Tosi, che è capo missione del Corpo Italiano dell'Ordine di Malta, che fin dai primi istanti presta soccorso materiale psicologico ad Amatrice. Lo sentiamo al microfono di Anna Marino. C'è stata una scossa 5 punto qualcosa, probabilmente con epicentro Macerata, siamo stati attivati adesso dalla Protezione Civile, siamo sui mezzi di soccorso per andare a girare nelle frazioni sopra Amatrice a vedere se ci sono stati dei crolli, se ci sono dei feriti, e siamo attivati in questo momento. È stata molto forte, guarda, sono caduti i cornicioni, ci sono di nuovo crolli? Non lo sappiamo, perché qui piove tra l'altro di rotto, siamo sotto la pioggia, non sappiamo bene cosa è successo, nel comune di Amatrice questo non ci riguarda perché non c'è più popolazione, però sono spente tutte le luci, sono saltate le linee di comunicazione e adesso stiamo andando nelle frazioni sopra Amatrice. Con che mezzi? Centauri, con le moto? Abbiamo dei Defender, abbiamo dei mezzi fuoristrada di soccorso. E vedo che arrivano soccorsi da più parti, anche da Milano stanno partendo volontari. E poi addirittura, ecco qui vedo una notizia, un'agenzia di aggiornamento di questi istanti, secondo la quale quella avvenuta oggi tra Perugia e Macerata è stata la scossa più forte scatenata dallo stesso sistema di faglie all'origine del terremoto di magnitudo 6,0 del 24 agosto. La sua intensità è pari solo a quella avvenuta un'ora dopo la scossa principale. Quindi insomma è stata una scossa di alto livello, purtroppo molto forte. Poi continueremo anche a sentire le valutazioni degli esperti, anche con gli aggiornamenti, delle notizie che arrivano man mano, perché è costante ovviamente il terremoto. Vi ricordo, la scossa si è avvertita in gran parte del centro Italia intorno alle 19:11 questa sera, e quindi si sta capendo un po' che cosa è successo, dove ci sono stati i crolli. Per ora si parla per fortuna solo di due feriti a Visso, in provincia di Macerata. Per alleggerirci almeno brevemente, sentiamo giusto Dario Ricci sulle partite. C'è gran parte della Serie A in campo stasera, Dario? Sì, praticamente tutta, Roberta, a parte Palermo-Udinese che si gioca domani sera. Vediamo. Vedo Fiorentina-Crotone sospesa per pioggia. Ah, ecco, quindi sì, ecco, infatti la notizia che ti stavo per dare, perché come stavamo raccontando anche nella pagina dedicata al terremoto, cioè oltre al terremoto c'è stato anche in ampie parti del centro Italia il maltempo, quindi Fiorentina-Crotone sospesa per pioggia al momento, mentre per quanto riguarda le altre gare già alcuni risultati che si sono sbloccati intorno alla mezz'ora, siamo nei primi tempi, Juventus in vantaggio per 2-0 sulla Sampdoria. Al quarto minuto la rete di Mandžukić, al nono il raddoppio di Chiellini, dilaga la Lazio sul Cagliari 3-0 con Keita e doppietta di Ciro Immobile, una rete sul rigore. E altro risultato importante, il vantaggio del Sassuolo sulla Roma 1-0 per i neroverdi, decide finora il gol di Paolo Cannavaro al 12°. Tutte le altre gare sono al momento sullo 0-0. Grazie Dario Ricci, adesso aggiorniamo chi sta viaggiando e poi torneremo naturalmente a parlare di terremoto, perché stasera è senz'altro il tema purtroppo dominante. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo Roberta Giordano con voi, più che le notizie, la notizia in particolare questa sera, un po' una puntata monotematica purtroppo di Effetto Notte per la forte scossa di terremoto che alle 19.11 è stata avvertita in gran parte dell'Italia centrale e ancora anche in quei comuni che erano stati già colpiti lo scorso 24 agosto. L'epicentro questa volta è Castel Sant'Angelo sul Nera, nelle Marche, in provincia di Macerata. Ci riaggiorna, però ci fa un riassunto delle ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti, la nostra Maria Luisa Pezzali. Maria Luisa. Sì, buonasera di nuovo, buonasera Roberta e a tutti gli ascoltatori. Iniziamo col dire innanzitutto che la sequenza sismica continua, perché dopo appunto la scossa di magnitudo 5.4 delle 19.11 ci sono state numerose altre scosse nella zona interessata, che lo ricordiamo è tra le province di Macerata e Perugia. Le più forti di queste repliche sono state registrate a Norcia, in provincia di Perugia, alle 19.55, poi a Preci, sempre provincia di Perugia, alle 20.39, magnitudo comunque consistenti 3.0, 3.4, e poi alle 20.34 a Castel Sant'Angelo sul Nera, appunto provincia di Macerata, che è proprio l'epicentro di questo sisma. Tra l'altro ricordavi anche tu prima degli aggiornamenti sul traffico, che quella avvenuta oggi è stata la scossa più forte scatenata appunto dallo stesso sistema di faglie all'origine del terremoto del 24 agosto scorso. Lo ricordiamo, non ci sono al momento, e ci auguriamo che la situazione rimanga questa, notizie di vittime. Risultano solo due feriti lievi a Visso, che è uno dei comuni della Valnerina appunto colpiti. Uno di loro è rimasto ferito in seguito al crollo del controsoffitto della sua abitazione. Ovviamente sono tuttora in corso tutte le verifiche di Protezione Civile e Vigili del Fuoco, stanno arrivando le squadre di soccorso anche con le torri faro della Protezione Civile sulle zone colpite, perché in molte di queste zone ancora l'energia elettrica è saltata. La magnitudo l'abbiamo ricordata appunto 5.4. gli altri comuni interessati oltre a Visso e a Castel Sant'Angelo sul Nera sono Ussita, Norcia e Preci, quelli proprio più vicini. Scossa però, dicevamo, avvertita in tutto il centro Italia, molto forte, in maniera consistente anche a Roma. Roberta. Grazie Maria Luisa Pezzali. Adesso vorrei invece sentire, intanto vedo sempre dagli aggiornamenti che arrivano ogni pochi secondi, ogni pochi minuti, che domani le scuole saranno chiuse a Rieti e saranno chiuse anche a Terni, quindi domani scuole chiuse a Terni e a Rieti. Dicevo, saluto Antonio Piersanti, che è sismologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buonasera Piersanti. Buonasera. Tra l'altro so che lei in questo momento si trova vicino alle zone dell'epicentro, vicino a Macerata. Sì, infatti posso dirle che probabilmente proprio circa un minuto fa c'è stata un'altra scossa abbastanza forte. Naturalmente questo glielo dico da testimone oculare, certo, perché non abbiamo ancora dati strumentali, però l'abbiamo sentita. Ecco qua. Senta, e a proposito invece delle valutazioni che si stanno facendo in questi minuti, insomma da quando c'è stata la prima forte scossa di terremoto alle 19.11, si dice che è strettamente legata a quella del 24 agosto e che è stata la più forte dopo la prima del 24 agosto. Sì, la seconda cosa che ha detto è assolutamente corretta, e per la prima, cioè più che dire che è legata, è più corretto dire che sostanzialmente siamo all'interno della stessa sequenza sismica. La sequenza sismica è iniziata il 24 agosto con il magnitudo 6 che ha distrutto Amatrice. Da quel momento lì noi abbiamo avuto decine e spesso centinaia di repliche ogni giorno. Queste repliche non si sono mai fermate. Magari non sono più state agli onori della cronaca nelle prime pagine dei giornali, ma ieri, l'altro ieri, 2 giorni fa, 3 giorni fa, sempre decine di terremoti ogni giorno noi abbiamo localizzato. La differenza è che questo è stato molto più forte degli altri, ma fa parte dello stesso fenomeno sismico. Come noi abbiamo detto sin dalle prime ore, le repliche avrebbero potuto essere di lieve intensità, ma c'era una probabilità che fossero anche molto forti. Questa purtroppo è stata molto forte. Ma vedo, stiamo tra parlando l'altro della stessa sequenza sismica. Vedo Piersanti che anche le agenzie adesso riportano una nuova fortissima scossa di terremoto si è avvertita poco fa nelle Marche, in tutta la regione. Non lei volevo, ne è testimone. Non volevo allarmare, ma questa è stata abbastanza forte. Molto forte. Piersanti, per spiegare alle persone comuni, anche come me, insomma, che ne capiscono poco di questo, che cosa significa? cosa sta succedendo in quella zona d'Italia, anche se sappiamo che un po' tutto il territorio italiano, no, è a rischio sismico. Sì, infatti quello che sta succedendo in questa zona d'Italia è purtroppo drammatico nei termini dell'impatto sulle popolazioni colpite, ma non è purtroppo nulla di eccezionale, nel senso che è la normale manifestazione dell'attività della terra, del fatto che la terra è viva. Noi viviamo in una nazione, in un territorio ad alta sismicità, in particolare tutta la catena appenninica è una zona ad altissima sismicità. E se vogliamo andare un po' più sul tecnico, la nostra sismicità è diversa ad esempio da quella del Giappone o da quella della California, ed è una sismicità che non è molto comune nel mondo. Le nostre faglie appenniniche sono faglie che si chiamano faglie normali. Allora, spesso, dunque, i terremoti... Per faglie si intende una frattura. Una frattura nella crosta terrestre. Le faglie normali non sono dovute a movimenti di compressione, come avviene nel Giappone, o a movimenti di scorrimento l'una sull'altra, come avviene in California. Sono dovute a movimenti di distensione. I terremoti forti che abbiamo noi magari sono meno forti di quelli giapponesi o di quelli californiani, però è tipico dei terremoti normali quello di avere sequenze sismiche che spesso durano di più. Piersanti, rimanga in collegamento se può, sì, perché c'è in collegamento Susanna Balducci della Sala Operativa della Protezione Civile delle Marche. Buonasera, sì, dottoressa Balducci. Buonasera. Buonasera, lei sta in pieno lavoro naturalmente, immaginiamo che siano, sì, momenti frenetici. Che cosa ci può dire? Allora, rispetto alla nuova scossa abbiamo appena avvertito, come tutti gli altri, siamo in attesa di conoscere la magnitudo esatto della scossa e stiamo per organizzare una riunione di coordinamento del centro operativo regionale con tutti i rappresentanti delle strutture degli enti a livello regionale. E al momento ci risulta, ma rispetto a quanto accaduto a seguito della prima scossa, di un ferito a Visso. Quindi un ferito a Visso. Un ferito, sì, dal 118 di Macerata ci risulta di un ferito a Visso, di uno spostamento di 4 persone che erano originariamente in una casa di riposo di Visso, ora in un hotel, e purtroppo l'abbiamo dovuto spostare a San Severino. E poi diciamo molti danni, quindi molte strutture al lavoro, però nessun'altra notizia o informazione in merito a ulteriori feriti. E questa naturalmente, è una buona notizia per il momento. Naturalmente adesso c'è stata una nuova scossa, speriamo che questo rimanga, però stiamo facendo insomma una ricognizione per capire effettivamente se ci sono stati ulteriori danni o vittime. Ecco. Senta, dottoressa Balducci, e quindi non c'è bisogno di procedere a evacuazioni di persone, a parte quello che ci diceva al momento? Allora, al momento si sta valutando quello che è lo stato dei fatti degli alloggi o delle persone che sono state postate su alloggi. Però diciamo che la zona che risulta al momento maggiormente colpita è la zona su Visso e Castel Sant'Angelo sul Nera. Questo. Tra l'altro vedo che il ministro Alfano annuncia che partono 41 squadre di vigili del fuoco che stanno insomma procedendo e sono all'opera in buona parte. Diciamo che purtroppo ci aspettiamo una richiesta di alloggi campali da una popolazione che magari era rientrata nelle proprie abitazioni, ma purtroppo naturalmente non se la sentirà di rimanere dov'è. Susanna Balducci, io la ringrazio moltissimo per la disponibilità, visto che ha il suo bel da fare, anche un momento di grande tensione. Le auguro buon lavoro, davvero. Grazie anche a voi. Grazie. Piersanti, sempre in collegamento, sto leggendo tra l'altro che per la nuova scossa di terremoto che ha anche interessato Pescara, lo stadio di Pescara, la partita è ferma al primo tempo. E poi un'altra notizia è che sono 5 i comuni più colpiti, Castel Sant'Angelo sul Nera, che abbiamo detto l'epicentro, insieme a Ussita, Visso, San Ginesio e Sant'Angelo in Pontano, tutte in provincia di Macerata. Questi sono i paesi, i borghi, le città più colpite colpite dalla scossa di terremoto delle 19:11. Non è più in collegamento Piersanti, anche lui purtroppo lì nelle zone dell'epicentro, quindi probabilmente è difficile anche il collegamento. Vediamo se riusciamo poi a raggiungerlo nuovamente. Intanto tra poco dovremo collegarci con il collega Daniele Morini, che anche lui è partito per raggiungere quelle zone, naturalmente zone colpite dalla scossa e che hanno precipitato un po' le popolazioni nel panico. Sono caduti oggetti nelle case anche a 80 chilometri dall'epicentro, sto guardando le ultime notizie. Panico di nuovo, gente in strada nelle Marche per la nuova forte scossa di terremoto che ha colpito la regione poco fa. Dovremmo aver raggiunto Piersanti? Sì, ci sono. Ecco, sì. Qui ci sono probabilmente dei problemi alla linea telefonica proprio. Infatti lo immaginavo. E che cosa invece, a proposito di immaginarci adesso Piersanti, che cosa dobbiamo pensare? Adesso sentivamo appunto la responsabile, la dirigente della Protezione Civile nelle Marche, che stavano facendo le valutazioni, stavano approntando le misure e naturalmente linee telefoniche potete immaginare proprio con quelle zone come siano in difficoltà. Vi dicevo che domani saranno chiuse le scuole a Rieti e a Terni e allo stadio di Pescara la partita è ferma perché anche lì naturalmente sentite le scosse, due scosse a questo punto, la più forte alle 19:11 e poi poco fa ci diceva lo stesso sismologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Antonio Piersanti, che perdiamo ogni tanto per strada a causa delle linee telefoniche disturbate, ci diceva che c'è stata un'altra fortissima scossa proprio nelle Marche. C'è sempre Maria Luisa Pezzali. Maria Luisa. Sì, stiamo cercando di raccogliere le notizie su questa seconda fortissima scossa, sembra addirittura più forte di quella delle 19:11, l'orario esatto è le 21:18, come abbiamo sentito proprio dalla nostra diretta. Ancora non c'è una quantificazione esatta della magnitudo, però si parla tra 6.2 e 6.4, quindi assolutamente una scossa incredibile, 61 km ad est di Perugia, però sono ancora in corso tutte le verifiche e stiamo cercando appunto la localizzazione esatta e la magnitudo. Roberta. Grazie Maria Luisa Pezzali. E intanto arriva anche qualche vostro messaggio. Oggi non ho ricordato il numero, la pagina Facebook di Effetto Notte, ma naturalmente se volete esprimere le vostre osservazioni, le vostre riflessioni, sono sempre aperti questi due canali, Effetto Notte e 349-238-6666 per sms e whatsapp, 349-238-6666. C'è Silvia per esempio che dice: sono in ufficio stampa Polizia Locale di Milano. Sono all'ufficio stampa della Polizia Locale di Milano. Da Amatrice c'è una nostra delegazione con capo missione che è della Protezione Civile. È sveglio. Giusto due minuti fa c'è stata un'altra scossa, appunto, come dicevamo. Se volete chiamarlo, vi mando il numero. Silvia, se vuoi mandare il numero, naturalmente è gradito e lo raggiungeremo. A proposito invece di Ussita, un altro dei comuni epicentro, vicino Macerata, arriva questa testimonianza: è stato un terremoto fortissimo, apocalittico, la gente urla per strada e ora siamo senza luce, vi prego lasciateci lavorare, così dice il sindaco di Ussita Marco Rinaldi dopo la nuova forte scossa. Quindi chiaramente diventa anche difficile raggiungere le persone, i funzionari, la Protezione Civile, anche se in parte lo abbiamo fatto poco fa lì nell'epicentro, perché tutti naturalmente sono presi da ben altre urgenze, da ben altre priorità. Ci fermiamo per il momento. Se volete appunto scrivere, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, un numero per messaggio WhatsApp che è il 349-238-6666. Ci sentiamo tra pochissimo. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10:30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10:30. È Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, e la notizia dominante oggi e dalle 19:11 di questa sera, quando c'è stata questa forte scossa di terremoto che è stata avvertita in gran parte del centro Italia, è questa la notizia che rende monotematica naturalmente questa puntata. Voi potete continuare mentre appunto parliamo e aggiorniamo, grazie ai colleghi e anche agli esperti, abbiamo raggiunto anche una dirigente della Protezione Civile nelle Marche, potete continuare con i vostri messaggi, perché intanto per esempio Silvia Mascheroni dell'ufficio stampa della Polizia Locale di Milano ci ha dato un collegamento utile, ci ha dato un numero che raggiungeremo poi tra poco, e poi anche i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666 ci aiutano anche un po' a condividere quello che sta accadendo, perché Cristian per esempio scrive: siamo a Fermo, nelle Marche, papà con due bambini in macchina aspettando la mamma che rientri dal lavoro, non sappiamo se rientrare in casa ora. Poi cercheremo di capire, adesso stanno facendo le valutazioni anche la Protezione Civile e ci sarà una conferenza stampa del capo della Protezione Civile Nazionale Curcio e anche del commissario straordinario per il terremoto Errani, questo alle 22, quindi poi cercheremo di sentirle in diretta. Intanto saluto nuovamente Maria Luisa Pezzali, la nostra Maria Luisa, ciao Maria Luisa, ciao, gli aggiornamenti, Roberta. Ci risintetizzi un po' per chi avesse acceso la radio in questo momento che cosa è successo stasera? Quindi due le forti scosse che ci sono state, una alle 19:11 e una alle 21:18 quando eravamo già in diretta. Certo, partirei proprio da quella delle 21:18 che dicevamo prima è stata avvertita come fortissima, più forte della precedente, di quella delle 19:11. Ora i dati ci danno conferma, perché la magnitudo stimata è quella di 5.9, secondo altre fonti addirittura 6.3, quindi assolutamente più forte di quella di magnitudo 5.4 delle 19:11. L'epicentro è lo stesso, quindi questi comuni tra le province di Macerata e Perugia, quindi appunto dalle 19:11 questi comuni sono al buio, tra l'altro è sotto la pioggia, e questo rende la situazione ancora più difficile. Infatti arrivano testimonianze, Roberta, le stai vedendo anche tu, immagino, dalle agenzie, sì. Il sindaco di Ussita, che è uno di questi comuni proprio nell'area dell'epicentro, parla di gente che urla per strada senza luce, quindi assolutamente scene di panico. Ricordiamo però che la macchina della Protezione Civile, che in quelle zone non si è in realtà mai fermata dal sisma del 24 agosto scorso, è pienamente operativa. Come anticipavi tu, verrà fatto il punto della situazione alle 22 in conferenza stampa appunto da Curcio e Errani, Curcio capo della Protezione Civile, Errani il commissario straordinario per l'emergenza. Anche arrivano racconti anche dalle aree colpite appunto già dal sisma del 24 agosto scorso. Il vice sindaco di Arquata parla di caos, gente sconvolta, insomma è una situazione che va assolutamente gestita, perché possiamo parlare, anche se ovviamente speriamo che la situazione rimanga questa, non sia al momento notizia di vittime, però è una situazione molto difficile da gestire per queste zone che sono già state duramente colpite dal sisma del 24 agosto. Roberta. Grazie Maria Luisa Pezzali, a dopo con Maria Luisa, perché gli aggiornamenti sono costanti. C'è per esempio per quanto riguarda Ancona tutta la gente in strada per la nuova scossa che abbiamo detto intorno alle 21:18, è avvertita anche in Toscana una scossa molto forte. Poi c'è Renzi a Palazzo Chigi, doveva registrare questa sera una puntata in un talk show su Rai 3 e invece ha saltato questa registrazione, in contatto costantemente con la Protezione Civile. Noi ci colleghiamo adesso con il nostro Daniele Morini, che proprio ha visto, ha raggiunto Visso, che fa parte un po' della zona dell'epicentro dove c'è stata questa forte scossa delle 19:11 e poi abbiamo detto una seconda scossa alle 21:18. Visso, grande panico, grande paura, Daniele? Sì, assolutamente sì, noi ci stiamo inoltrando a piedi lungo la strada che appunto dalla superstrada Foligno-Civitanova, passando per Muccia, si porta fino a Visso, e ci siamo dovuti fermare. Sulla strada ci sono molte case crollate completamente, interamente, per il momento per fortuna non si hanno notizie di vittime, ma ci sono molti crolli, la corrente elettrica pubblica non è in funzione, lo è quella delle abitazioni private, però ecco, ci sono i primi soccorsi, pattuglie della polizia, abbiamo visto esercito, tutte le forze dell'ordine che erano già qui in loco ovviamente per il terremoto del 24 agosto, signore che piangono, un'anziana signora poco fa era da sola, è crollata tutta la casa alle spalle della sua abitazione che è rimasta in piedi per fortuna. Naturalmente gli edifici che sono crollati sono edifici non ristrutturati di recente, abitazioni abbastanza vecchie, lo si vede chiaramente con appunto una situazione magari statica già compromessa dal terremoto del 24 agosto, ma è sicuro che queste ultime due scosse fortissime, la seconda come notazione così personale, ci ha quasi buttato fuori di strada, eravamo a una 7-8 km da Visso. Addirittura mentre eri in macchina hai avuto questa... Sì, assolutamente sì, pensavamo di aver bucato almeno una gomma. Invece no, è stata proprio la forza della scossa, esatto, del terremoto. Esatto. Sembrava proprio di stare in una, così, di ballare con grande forza. C'è anche un forte odore di gas lungo la strada. E, insomma, la situazione purtroppo è abbastanza brutta. Speriamo solo, incrociando le dita, che non ci siano vittime, cioè che la prima scossa, quella un po' più debole, abbia fatto uscire di casa molte persone. Ecco, tra le luci delle torce, quelle dei faretti di qualche telecamera, ci stiamo così avvicinando al centro di Visto, sentiamo delle grida, sentiamo dei pianti, e insomma la situazione non è affatto bella. Certo. Ecco, qui da Visto. Certo. Daniele, tu puoi rimanere ancora in collegamento, vuoi che ti raggiungiamo più tardi? Tra qualche minuto cerchiamo di scavalcare una muraglia di materia alta un metro e mezzo, due, per poter continuare verso Visto. Va bene, a dopo allora, grazie Daniele Morini. Ciao. Intanto c'è in collegamento adesso Cristiano Cossi, che è coordinatore della missione della protezione civile di Milano da Amatrice, e proprio poco fa ci aveva scritto la responsabile dell'ufficio stampa della Polizia Locale di Milano dicendoci, se volete vi diamo un riferimento, e ben volentieri. Cristiano Cossi, buonasera. Sì, buonasera. Quindi... da Amatrice stiamo facendo le verifiche coordinate dal centro operativo intercomunale, presente il sindaco, con tutte le forze dell'ordine si sta facendo le verifiche nelle abitazioni dove comunque erano rientrate le persone. Per ora non si segnalano feriti, la gente è molto spaventata, ovviamente, e tutte le verifiche, specialmente sulla seconda scossa, sono ricominciate adesso. Cioè sono già in atto... in tutte le frazioni. Quindi voi siete partiti praticamente subito, Cossi, da Milano? È il quarto giorno, quindi siamo qua da... quarto giorno che siete lì, perché le scosse effettivamente, come ci ricordava anche il sismologo, continuano da tanto tempo, anche se magari diventando... Non di questa intensità, ovviamente. Non di questa intensità, appunto, quando purtroppo erano diventate routine, naturalmente se ne parla meno, e poi di nuovo queste due scosse, la prima 19-11 e poi la 21-18, che di nuovo hanno ripiombato. La seconda anche qua è stata avvertita in modo più importante. Lì è stato qualche crollo delle case già lesionate, probabilmente. Sì, e le persone, immaginiamo, no, già così profondamente colpite lo scorso 24 agosto lì ad Amatrice, come si possano sentire in questo momento, anche se per lo più è stata evacuata a Cossi, Amatrice? Sì, infatti nei campi dove risiedono le persone la Regione Lazio ha mandato degli esperti, appunto, anche per la parte di comunicazione con la popolazione. Per il momento lì non avete, pare, notizie, perché per ora l'unica notizia di un ferito era Visso, in provincia di Macerata. No, non abbiamo nessuna notizia di feriti. Grazie Cristiano Cossi, e buon lavoro. Niente, buon lavoro davvero, grazie. Buonasera. Adesso c'è forse Dario Ricci? Sì, c'è il collegamento, sì, da cara Dario. Roberta, per dovere di cronaca aggiorniamo anche sul calcio, sperando che poi dal luogo del terremoto non arrivino notizie ancora più brutte. Anche perché si stava giocando anche a Pescara, sì, e quindi no, sì, è stata fermata la partita di Pescara, è stata fermata per un minuto perché il sisma, soprattutto la seconda scossa, si è sentita forte anche allo stadio Adriatico, mentre ricordo che è stata interrotta, ma per maltempo, Fiorentina-Crotone a Firenze. Siamo nell'intervallo, fra poco inizieranno i secondi tempi, rapidamente i risultati: Juventus in vantaggio 2-0 sulla Sampdoria con le reti di Mandžukić e Chiellini, l'Inter è in vantaggio per 1-0 a Torino, decide finora un gol di Icardi che ha approfittato di un errore, di un rimpallo fortuito generato dal portiere granata Hart. 3-0 della Lazio sul Cagliari con la doppietta di Immobile, un gol su rigore l'assolo di Keita, e poi il Sassuolo in vantaggio per 1-0 sulla Roma. Tutte le altre gare, comprese quindi anche Napoli-Empoli, al momento sullo 0-0. Grazie Dario Ricci. Intanto vedo anche la vostra compartecipazione attraverso i messaggi sia sulla pagina Facebook di Effettonote che al 349-238-6666. Un ascoltatore o ascoltatrice dice: io vivo a Roma, il terremoto si è sentito e come, sentire la porta che si scuote non è affatto piacevole. Poi Luca: l'ultima scossa sentita anche io in provincia di Milano addirittura. Stefano: altra scossa di terremoto sentita a Forlì, quindi in Emilia Romagna. E poi c'è questo ascoltatore che dice: la scossa anche delle 21:18, un'ascoltatrice dice, è stata sentita anche a Napoli, abito di fronte allo stadio San Paolo. Quindi insomma si è ramificata, chiaramente l'epicentro è nelle Marche, nei paesi di cui abbiamo parlato, però si è sentita in gran parte del centro Italia, qualcuno dice addirittura in provincia di Milano e anche a Napoli. Ci sentiamo tra pochi istanti, intanto la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo, Roberto Giordano, con voi. Questa puntata è praticamente monotematica sulla forte, prima forte scossa di terremoto, il 19-11 di questa sera, che ha colpito, che è stata avvertita da gran parte dell'Italia centrale, con epicentro a Castel Sant'Angelo sul Nera, in provincia di Macerata, e in tutti i paesi intorno. E però è stata sentita la diramazione di questa scossa così forte anche in altre parti d'Italia, ci scrivevano gli ascoltatori da Napoli, da Forlì. Adesso un altro messaggio, dice: Cesena in autogrill, una scossa sentita forte. Francesco da Torino. Quindi se volete continuare anche a testimoniare da dove vi trovate, sia sulla pagina Facebook di Effettonote, potete scriverlo al 349-238-6666. Intanto, dicevo, la seconda scossa invece alle 21:18, molto forte anche questa, la prima alle 19:11 di magnitudo 5,4, e poi la seconda, anch'essa molto forte, 5,9, addirittura quindi più forte. Maria Luisa Pezzali si sta man mano riaggiornando sulle notizie che arrivano di minuto in minuto, di insomma ogni pochi minuti. Ci siamo collegati con la Protezione Civile delle Marche e dovremo adesso raggiungere anche il sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, che è proprio l'epicentro di questo nuovo terremoto, Mauro Falcucci. Sindaco. Eccoci, buonasera. Buonasera sindaco, grazie per la disponibilità in un momento così complicato. È un momento tremendo, un momento brutto, perché stiamo andando su una frazione, stiamo scendendo, sono parecchi massi in mezzo alla strada. Lì a Castel Sant'Angelo. Abbiamo visto un crollo sicuramente sul centro storico, perché quando è tornato un attimo l'energia elettrica, adesso non c'è di nuovo l'energia elettrica, quindi siamo senza energia elettrica. Grazie a Dio non ci dovrebbero essere feriti, dico non ci dovrebbero perché non ci risultano feriti. Adesso questa è l'unica buona notizia al momento, sembrerebbe. Il resto è un disastro, non si resiste dalle continue scosse che poi sono significative, non sono sciami forti, quella di prima non so se era 5-9, se sì, 5-9, la seconda era 5-9, l'avete sentita molto forte. Sciami, cioè, non ne parliamo nemmeno, stavamo su un piazzale, si ballava, poi è durata pure, non so più, ormai sentiamo tutto, purtroppo è un momento difficilissimo. Senta, mettendo di piove, pioveva prima, immagini poi lei. Falcucci, le persone come stanno reagendo? Sono uscite tutte, immaginiamo, dalle abitazioni? Tutti quelli pochi, siamo tutti quanti su un piazzale. Quanti abitanti a Castel Sant'Angelo? No, pochissimi, i residenti sono attento. Quanti sono? Attento perché qui sono 2,77, lascia perdere perché qui è pericoloso. Cioè, sta parlando anche con qualcuno lì intorno a lei? Sì, sono con la Protezione Civile, certo, stiamo con lei. Certo. È crollata la casa, a posto. E servono giù tutti. A posto, guardate che è finita la casa. Ci abbiamo un crollo proprio al centro, siamo lì a vedere. Quindi circa 300 persone, gli abitanti, sono lì a Castel Sant'Angelo. Sì, siamo 277, sì. Ovviamente siamo molti di meno adesso. Perché con il precedente sisma, mettete un po' più al centro per fuori, non sta proprio qui sotto, perché se qui dà un'altra botta siamo sotto pure noi. State attenti, mi raccomando, sindaco. Non voglio distrarla, naturalmente. No, niente, che le devo dire, è un disastro, eccola qua, in diretta. Vabbè. Senta, di feriti per il momento speriamo appunto non ci dovrebbe essere. Non sembrerebbe nessuno, però andiamocene da qui perché qui è pericoloso, sto di la vista, vai. La risposta è vero, Cecilia, che siamo a fangiro, siamo andati a cercare il nostro operaio che non ci rispondeva, stava rimuovendo dei sassi, quindi... Ci sono stati molti crolli da quello che lei vede intorno, sindaco Falcucci. Adesso le dico proprio di sì, perché qui questo è un po' da giù, il centro storico va a quello di qua. È tutto un crollo adesso. È tutto un crollo. Senta, questa c'è già la protezione civile lì da voi, no? Quindi ci siamo noi, stiamo aspettando... Attenzione, passa veloce perché qui se no viene tutto, va veloce. Ho il comune, se sta ancora in piedi il comune è tornato alla luce, è tutto acceso, però... Tornata alla luce. Se no le chiavi, magari la ma spegne, aspetta, lascia perdere, la luce non ce ne frega niente, della luce non succede nulla, andiamo di nuovo e stiamo a parlare con lei in diretta, niente, è un dramma per quello che teniamo, un dramma. Ce ne rendiamo conto, sindaco, mi raccomando. È un dramma perché siamo pochi, ma è un dramma. Però è tutto nelle sue mani, lei in questo momento è diciamo la roccia per i suoi cittadini. Solo che, lo so, dal 24 di agosto pensavamo... di ricominciare, ma niente, ricominciamo da capo tutto quanto, via, va bene. Sindaco Mauro Falcucci, io la ringrazio, l'abbraccio e mi raccomando. Contra cambiamo tutti noi, perché grazie. Sentirvi comunque vicini ci aiuta anche in questo momento, è drammatico. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie sindaco, grazie mille. Grazie al sindaco Mauro Falcucci di Castel Sant'Angelo sul Nera, che appunto abbiamo detto è l'epicentro di questo nuovo terremoto, sia delle due scosse, la prima questa sera alle 19:11 e poi la seconda ancora più forte alle 21:18 di 5,9 gradi di magnitudo. Maria Luisa Pezzali. Sì, abbiamo proprio avuto la percezione della difficoltà di queste zone dal racconto del sindaco. Roberta, immagino tu concorderai. Certo, proprio... lo sentivamo, poverino, un po' parlava con noi, un po' con la protezione civile e da grande insomma sconforto inevitabilmente. No? Dopo... Emotivamente la situazione è veramente difficile, lo dicevamo prima, un'emergenza che va gestita, tutta la gente è in strada e immagino che in quelle province si tratta di zone comunque vaste. Abbiamo già raccontato in quanti posti si sia avvertita in maniera così importante la scossa, poche persone insomma si fideranno a dormire nelle proprie abitazioni e quindi è una situazione difficile, tra l'altro in molte di quelle zone in questo momento sta anche piovendo. Speriamo che, come ci raccontava prima Daniele Morini, appunto la prima scossa, quella delle 19:11, 5.4 la magnitudo, abbia fatto sì che tutti siano usciti dalle proprie abitazioni, così che la seconda appunto non abbia provocato vittime. E ricordiamo, al momento ci sono solo due feriti nella zona di Visso, che è uno dei comuni nell'epicentro. Le due scosse hanno avuto lo stesso epicentro, Castel Sant'Angelo sul Nera appunto e Visso, oltre a Ussita e Preci, siamo proprio in provincia di Macerata. Lo ricordiamo appunto, la macchina della protezione civile è pienamente operativa, stanno continuando le verifiche di protezione civile e vigili del fuoco. Il premier Matteo Renzi è a Palazzo Chigi, dove segue costantemente la situazione, in contatto costante appunto con la protezione civile. Alle 22, lo abbiamo già anticipato, ci sarà una conferenza stampa proprio per aggiornare sulla situazione del commissario straordinario alle emergenze Errani e del capo della protezione civile Curcio. Roberta. Infatti poi Maria Luisa Pezzali, noi ci aggiorniamo e ci sentiamo, poi sentiamo anche la conferenza stampa tra poco. Intanto stanno arrivando davvero tantissimi vostri messaggi, poi li leggerò, perché da varie parti d'Italia, al 349-238-6666 e sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra l'altro per il calcio Fiorentina Crotone si è ripreso a giocare e direi che ci possiamo lasciare a questo punto e ci risentiamo appunto alle 22. A dopo. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Anche tu ami l'indagatore dell'incubo. Raccontaci perché con una mail a dylandog@radio24.it e potrai ricevere in regalo una copia di Dylan Dog Diary. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni sabato alle 15 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Pneumatici invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. Sono le 22. GR 24. Il sole 24 ore. Terremoto forte scossa in centro Italia di 5,4 gradi alle 19.11 e poi una seconda scossa alle 21.18 di 5,9 di magnitudo. Torna la paura ad Amatrice con nuovi crolli. L'epicentro nella provincia di Macerata, nelle Marche. Nella zona sono saltate le linee elettriche. Abbiamo un grosso problema sulla Salaria. La chiudiamo all'altezza di Arquata, ha detto il dirigente della Protezione Civile delle Marche, Cesare Spuri. La valutazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il terremoto è collegato a quello avvenuto il 24 agosto nel Reatino. Scene di panico a Visso in provincia di Macerata, dove c'è un ferito. E poi gli altri titoli: grandi opere, ancora corruzione, appalti truccati, 30 arresti per la TAV Genova-Milano e per la A3 Roma, la sindaca Raggi sui frigoriferi abbandonati in strada, dice il recupero ingombranti è interrotto da giugno e non sappiamo il perché. Manovra economica, il commissario europeo Moscovici tende una mano all'Italia e dice sì al dialogo. Migranti, 2016 è l'anno più letale per i migranti che hanno tentato di attraversare il Mediterraneo, lo dice l'agenzia dell'ONU per i rifugiati. Pakistan ha arrestata la ragazza afghana dagli occhi verdi del National Geographic per documenti falsi, immortalata dalle foto di Steve McCurry. Alla notizia il fotografo fa sapere che intende aiutarla finanziariamente, ha sofferto troppo nella vita, dice. Per il calcio, turno infrasettimanale di Serie A, Inter Torino decide il destino di De Boer e ci risentiamo tra pochissimo, puntata ormai monografica questa di Effetto Notte sul terremoto. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Praticamente una puntata speciale questa di Effetto Notte, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Roberta Giordano con voi, iniziata alle 21 con una scaletta completamente sconvolta, perché poi la notizia che è arrivata è stata quella di un nuovo terremoto, la prima forte scossa che ha riguardato gran parte d'Italia centrale alle 19.11 di magnitudo 5,4 e poi alle 21.18, già quando eravamo in diretta, un'altra fortissima scossa che si è sentita in particolare nelle Marche, ma non solo, da tutti i messaggi che state scrivendo da varie parti d'Italia, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS se volete appunto compartecipare. Leggo per esempio Paola che dice: da Montevarchi, Arezzo, le scosse sono sentite e come, ero al lavoro e ci hanno mandato a casa. Tra l'altro parliamo di Toscana e a Firenze, fra le altre cose, c'è stata anche una forte bomba d'acqua, è stata un bifragio, è stata interrotta anche la partita della Fiorentina. Poi altri messaggi: la scossa si è sentita anche a Latina, a casa mia si muoveva il lampadario, scrive un altro ascoltatore. A Riccione, Viale Ceccarini, in pizzeria al piano terra, la scossa delle 21.18 è stata davvero molto forte, scrive Angelo. Anche a Ferrara, scrive un altro ascoltatore, la scossa delle 21.18 si è sentita molto forte, ero appoggiato al mobile del lavello in cucina e ho sentito spostarsi. Domenico da Modena, la seconda anche a Floriano Modenese. Poi un altro ascoltatore: ero in auto a Corridonia in provincia di Macerata, scene di panico, la gente ha rischiato di essere investita, quindi potete immaginare il ritorno di nuovo della paura, del panico dopo il fortissimo sconvolgente terremoto del 24 agosto scorso. Ma c'è Maria Luisa Pezzali che adesso ci aggiorna di tanto in tanto. Maria Luisa, eccoci di nuovo. Sì, di nuovo, buonasera Roberta, un saluto di nuovo a tutti gli ascoltatori. Si moltiplicano proprio le testimonianze, così come dai nostri messaggi, su questa seconda scossa, quella delle 21.18 di magnitudo 5.9 rispetto a quella delle 19.11, lo ricordiamo, quella era di 5.4. In particolare il sindaco di Ussita, che è uno dei comuni proprio nell'area dell'epicentro, insieme a Castel Sant'Angelo sul Nera, Visso e Preci. In provincia di Macerata. Esatto, sì. Sono tutti in provincia di Macerata, nelle tranne Marche. Preci, che è in provincia di Perugia, perché siamo comunque nell'area tra le province di Macerata e Perugia. Il sindaco di Ussita, Marco Rinaldi, ha detto: il nostro paese è finito. Sono veramente parole che toccano, e le raccolte Sky TG24, riascoltiamole. Sì. L'ultima scossa è stata terribile, con epicentro qui a Ussita, è stata lunga, una violenza inaudita, ci sono crolli, crollate parecchie case, è crollata la facciata della chiesa, della pievania, ci sono problemi enormi, si è spaccato il terreno, non possiamo raggiungere la frazione Casali, si è squarciata la strada, ci sono movimenti di dissesto idrogeologico consistenti, ma è stata una scossa. Io guardi, sono oramai, ne ho sentiti tanti di terremoti, il più forte terremoto che della mia vita, una cosa terribile, inaudita. Ci sono difficoltà di accesso perché le nostre strade di accesso incombono sotto pareti rocciose che hanno rilasciato massi, e questo vale per tutto il territorio. Ecco, mi danno notizia adesso che l'albergo dove avevamo spostata la casa di riposo ma ridotto, dobbiamo portare via 25 persone dalla casa di riposo. Situazione apocalittica. Rieccoci insieme, abbiamo sentito, appunto, è doloroso sentire lo sconforto di questi sindaci, oltre naturalmente alla cittadinanza, ma loro si fanno portavoce di quello che succede, dei sentimenti delle persone. Maria Luisa Pezzali, noi avevamo sentito prima, ci siamo collegati, no, con Mauro Falcucci, sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, proprio l'epicentro, che abbiamo sentito particolarmente affranto. Adesso ci colleghiamo con un altro sindaco, il sindaco di Preci, in provincia di Perugia, Pietro Bellini. Buonasera sindaco. Buonasera. Grazie di aver risposto alla nostra telefonata, perché lo sappiamo che sono frangenti in cui le vostre priorità sono altre, ma così ci aiutate anche a raccontare quello che sta succedendo e anche a far capire alle persone che cosa è il caso di fare, che cosa avviene man mano nei vari paesi colpiti. Sindaco, sì. Per quanto riguarda Preci, qual è attualmente la situazione? Diciamo sono momenti molto difficili perché vi è stata una scossa prima iniziale abbastanza consistente, e poi la seconda immediatamente poco dopo che è ancora più grande, quindi la situazione è preoccupante. Abbiamo cercato di mettere in sicurezza subito le persone più anziane, abbiamo riaperto immediatamente i centri di accoglienza, eravamo allestiti il 24 agosto. Stiamo cercando di fare i sopralluoghi, ma oltretutto c'è il tempo che non è stato per nulla, come si dice, a nostro favore, in quanto si è verificato un temporale proprio nel momento in cui erano queste scosse. E adesso stiamo facendo la verifica capillare su tutte le frazioni, perché noi abbiamo 18 paesi sparsi anche a 1400 metri, quindi diventa difficile. Le strade sono, diciamo, adesso mi è arrivata comunicazione che devo chiudere la strada di collegamento Preci Norcia. E ho una segnalazione di un masso nella prossimità di Rifonso che probabilmente farà chiudere anche quella strada, e quindi saremo isolati. Sindaco, ma qualcuno vi ha già raggiunto della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, abbiamo, comunque, no? Sì, no, su questo tempestivi sono stati sia i Vigili del Fuoco che la Protezione Civile. Noi siamo qua già con la Protezione Civile, con i Vigili del Fuoco, quindi stanno facendo il loro lavoro sul territorio, cercando di capire, di verificare i danni, se ci sono pericoli imminenti per l'incolumità pubblica. Ecco, insomma, stiamo facendo questa verifica qua. Questa verifica. Feriti per il momento, per fortuna, neanche da voi ci sono? No, feriti al momento non ci sono. Ecco, poi per quanto riguarda la Protezione Civile, stanno già arrivando i soccorsi con coperte per cercare di passare al meglio la nottata, al caldo, insomma, la notte, perché comincia la temperatura a essere un po' rigida. Quindi ecco, stiamo lavorando, ma è dura. Sindaco, immaginiamo quindi che sia sulle sue spalle in particolare, no? questa situazione. Sì. Senta, i cittadini come stanno reagendo, e più o meno quanti abitanti ha Preci? Preci ha 750 abitanti. All'anagrafe, ma in questo momento la presenza è scarsa perché il terremoto ha portato via... Quelli del 24 agosto già se ne erano andate diverse persone, sì, quindi... Sì. Senta, e da un punto di vista dei crolli, almeno quelli visibili, palesi, adesso al di là della verifica sull'agibilità degli altri edifici? Guardi, al momento è difficile quantificare la cosa, ma credo che ancora abbia tenuto bene i nostri edifici, anche se a Preci capoluogo durante la seconda scossa ho sentito dei crolli all'interno, però penso poche cose, pochissime cose, quindi... Per il momento penso che la situazione è abbastanza contenuta. Sindaco Pietro Bellini, in ogni caso, insomma, forza e un abbraccio da noi. Grazie tante. Grazie sindaco. Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera. Grazie, buon lavoro. Daniele Morini, adesso ci ricolleghiamo con il nostro Daniele Morini che stava andando, era lì a Visso, che doveva superare anche una serie di macerie, Daniele, per riuscire poi a rifare il collegamento. Ci riaggiorni, sì, lì dalla, ecco, situazione di Visso, sempre, sì, sempre vicino Macerata, no? Sì, siamo sempre proprio lungo il confine tra l'Umbria e le Marche, perché questa è una zona di confine, qui a due passi c'è Castelluccio di Norcia, insomma è una zona veramente di confine perché corre lungo tutto l'Appennino centrale dell'Italia centrale umbro-marchigiano. Ecco, noi in questo momento siamo dovuti tornare indietro perché non è possibile, la strada è completamente bloccata, non è possibile appunto attraversare, ci siamo spinti qualche centinaio di metri più avanti, siamo arrivati fino al borgo, alla piccola frazione di Villa Sant'Antonio e purtroppo lì si fermano, diciamo, tutti i nodi vengono al pettine perché si fermano i soccorsi, non si riesce ad attraversare proprio per le case crollate che avevamo raccontato nel precedente collegamento. È caduta quasi completamente, è rimasta in piedi un po' di facciata e la torre campanaria, la chiesa appunto della frazione di Villa Sant'Antonio. Le forze di protezione civile impegnate qui stanno casa per casa, letteralmente ciò che avevamo visto anche nella notte del 24 agosto, stanno cercando di fare un po' l'appello, che tutti siano in salvo, che tutti siano usciti. Per il momento appunto non ci sono brutte notizie, mancano ancora delle persone all'appello, ma al momento non ci sono segnalazioni di vittime. Noi adesso riproveremo a breve a passare oltre questa frazione per raggiungere Visso, dove purtroppo le notizie non sono belle da quello che sentiamo da polizia, carabinieri e l'esercito appunto, che sta qua cercando di capire come disostruire in questo momento la strada, che altrimenti si parla di centri che sono completamente isolati, se non raggiungibili a piedi, proprio perché ci sono, come dicevamo prima, case in mezzo alla strada. Un forte odore di gas lo sentiamo anche in questo momento, cavi di alta tensione che attraversano la sede stradale, insomma è una situazione un po' così, molto precaria, insomma, ecco. Daniele Morini, grazie, noi ci ricolleghiamo poi più tardi con te, grazie di questi collegamenti mentre procedi appunto in questi percorsi difficili, tortuosi e accidentati per Visso, naturalmente con i crolli che ci sono stati, con le strade che vengono chiuse e naturalmente con situazione di emergenza ovviamente. Vedo che tra l'altro prima dicevamo chiuse le scuole di Rieti, chiuse le scuole di Terni domani, e anche stavo vedendo un'altra notizia che riguardava sempre le scuole, se non sbaglio, mi pare di aver visto Pescara, ma adesso cerco di nuovo perché le notizie si aggiornano man mano velocissime. E c'è anche un'altra notizia che invece riguarda una partita, la partita a Pescara. Dario Ricci? Sì Roberta, perché si sta giocando allo Stadio Adriatico, come ricordavamo, Pescara-Atalanta, e l'Atalanta tra l'altro è in vantaggio per 1-0, ma i tifosi abruzzesi hanno inscenato una contestazione, la curva nord dello Stadio Adriatico, quello del tifo più caldo pescarese, durante il secondo tempo. Di fatto i gruppi organizzati hanno abbandonato per protesta proprio la parte centrale del settore, contro la decisione di far proseguire la gara nonostante il terremoto di queste ore. Quindi una contestazione, e i tifosi di fatto stanno chiedendo l'interruzione della gara che però al momento prosegue. Quindi grande sensibilità da parte dei tifosi, più che diciamo da chi dirige la gara. Intanto grazie da Luigi, poi ci aggiornerai nuovamente. Intanto diamo anche le informazioni per chi ascolta viaggiando, e voi continuate anche con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al numero 349-238-6666. Niente viabilità, procediamo invece. Vedevo appunto che le scuole saranno chiuse domani, intanto man mano alcuni comuni aggiornano, a Rieti, a Terni e all'Aquila domani scuole chiuse. E poi c'è anche una testimonianza, vedevo adesso intanto che a Norcia, Campi di Norcia, in Umbria, semidistrutta la chiesetta di San Salvatore a Campi di Norcia, distanti pochi chilometri in linea d'aria da Castel Sant'Angelo sul Nera, epicentro del terremoto. E poi un altro sindaco, ne abbiamo già sentito qualcuno, c'è anche il sindaco di Serravalle Chienti, sempre vicino Macerata, che parla di un bombardamento addirittura, dice: brutta come se ci fosse stato un bombardamento la situazione, una botta che non finiva mai. Il sindaco di Serravalle di Chienti, Gabriele Santa Marianova, che ha constatato dei crolli nel centro storico della cittadina. Praticamente il dolore non è soltanto, soprattutto naturalmente per le persone che stanno continuando a soffrire una situazione così terribile, di paura, di dei morti anche del 24 agosto, di abbandono delle proprie case, delle proprie cose, ma anche di questo sgretolarsi di buona parte del cuore antico e anche artistico, insomma, della nostra Italia. E di nuovo ci colleghiamo con Maria, la nostra Maria Luisa Pezzali. Maria Luisa. Sì, Roberta, intanto la Protezione Civile conferma che in relazione, in seguito alla scossa di magnitudo 5.9 delle 21.18, a quanto si apprende si sono verificati nuovi crolli, ma al momento non risultano nuove segnalazioni di feriti, oltre alle due persone rimaste ferite appunto a Visso dopo la prima scossa, quella delle 19.11, di cui abbiamo appunto già dato notizia più volte. Sono tuttora in corso le verifiche tra Macerata e Perugia in questa ampia area di epicentro che ha colpito appunto questa sera queste zone, e ricordiamo che siamo anche in attesa della conferenza stampa del capo della Protezione Civile Curcio e del commissario straordinario all'emergenza Errani. Si sono coordinati per fare il punto della situazione alla direzione di Rieti del Dipartimento della Protezione Civile, da lì quindi a breve dovrebbe iniziare la conferenza stampa che farà il punto sulla situazione. Grazie Maria Luisa Pezzali, poi naturalmente sentiremo appunto, come ci dicevi, il capo della Protezione Civile Curcio in questa conferenza stampa, che quindi spiegherà qual è la situazione, che misure si stanno approntando. Intanto insieme poi a Errani, commissario straordinario dell'emergenza, c'è una testimonianza da Macerata. Paola Midori? Sì, sono io. Salve. Paola. Ciao. Senti, sei allora, lì a Macerata, e quindi sì, hai vissuto tutte e due le scosse forti di questa serata, sì, no? Sì, la prima che c'è stata alle 19, ero al lavoro, quindi in studio, e quindi diciamo è stata avvertita bene, anche perché è passato del tempo da agosto, quindi diciamo che è stato un po' riprovare delle sensazioni già vissute. E poi invece quella delle 9:15 stasera è stata veramente terribile. Ancora più forte, quindi. Sì, molto più forte. Io poi sono in un palazzo al quarto piano, e quindi abbiamo sentito tutto molto bene, mi cascavano gli oggetti dalla libreria, mi si è rotto uno specchio, che è una cosa frantumato, che è una cosa veramente, che mi ci ha fatto veramente paura, ecco. E quindi dopo siamo usciti tutti per strada, qui a Macerata sembra, cioè c'erano le file per strada, tanto che il sindaco su Facebook ha scritto insomma di cercare di non occupare le strade, di andare solamente nei posti, zona stadio, insomma quelle zone in cui ci sono dei parcheggi ampi. Città molto, ecco, bella, con un centro storico molto bello, sì, tra molto l'altro bello, Macerata, molto bello. Per adesso non sappiamo nulla, speriamo che insomma non ci siano grossi danni insomma alle strutture, alla chiesa, al centro. Certo. Paola, senti, stai incontrando persone intorno a te? Quali sono molti giovani, perché Macerata ha l'università, certo, quindi ci sono tantissimi ragazzi che sono fuori sede e che quindi si sono ritrovati da soli in questa situazione. Io anche nel mio palazzo ho delle ragazze a fianco, insomma abbiamo cercato di farci un po' forza, e niente, quindi insomma questa è la situazione. Ma Paola, che indicazioni vi stanno dando di restare fuori, di dormire fuori, di tornare in casa? Sì, ripeto, ho visto l'annuncio su Facebook del sindaco e quello che abbiamo, insomma, che abbiamo letto, che ci dicono di rimanere fuori nelle zone tipo stadio, tipo ci sono un po' di zone, insomma centrofiere, quei posti che hanno dei parcheggi ampi e quindi dove si può stare. E altro, sinceramente, ora a parte la gente che è qui, siamo nei bar, tra l'altro piove a dirotto. Tra l'altro. Mettiamoci anche questo, quindi siamo tutti qui nei bar e niente. Siamo qui e stiamo pensando la notte, come faremo questa notte. Infatti, cosa pensi di fare tu, Paola? Non lo so, guarda, veramente non lo so. Pensavamo o di rimanere in macchina appunto in questi parcheggi così, oppure cercare insomma in qualche in casa di qualche amico, ma comunque ecco, spostandoci per dei chilometri, quindi non certamente rimanere qui. Però devo dire, guarda, la cosa che posso dire è che sono veramente terrorizzata. Beh, si può immaginare. Questa è stata veramente la più forte che ho sentito in tutta la mia vita, insomma, veramente incredibile. Paola, speriamo che la notte prosegua in modo migliore. Guarda, eh? Sì, speriamo tanto, grazie mille. Te lo auguriamo. Grazie Paola Bedori. Ciao. Grazie da Macerata. E adesso subito collegarci con un altro sindaco di questi paesi colpiti. Sono i primi testimoni, sono un po' il punto di riferimento della loro cittadinanza. Il sindaco di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci, tra l'altro profondamente colpita già dal terremoto del 24 agosto scorso. Sindaco Petrucci, buonasera. Ci risiamo, buonasera. Purtroppo, ma speriamo non a quei livelli, però. Ma diciamo che abbiamo avuto più paura adesso che l'altra volta. Addirittura. Perché lì era nel sonno. Adesso c'è le due scosse, sono state micidiali. Tutta la gente che c'aveva nelle case, diciamo, agibile, è scappata tutto. Stiamo in un tendone che era della mensa e approntando i letti perché nessuno tornerà a casa. Io mi sono messo d'accordo con il prefetto, stiamo vedendo chi vuole andare, li sposteremo a San Benedetto dal Tronto, tra poco arriverà un pullman, chi vorrà, perché la situazione è di panico. Già un paio di donne non si sono sentite bene, ma non a causa di crolli, a causa proprio della paura, dello spavento, e quindi la situazione è abbastanza critica. In più piove a dirotto e quindi diciamo che da cinquantina possiamo ancora sistemare nelle tende, ma mi vengono dagli alti borghi, perché sono, il nostro comune è composto da 14 borghi, però 5 sono in pratica zona rossa, quindi non ci abita nessuno. Ma degli altri paesi si stanno accentrando tutti qui, diciamo, dove abbiamo il comune provvisorio, perché quell'altro è crollato, la frazione Borgo, e niente, vengono con le macchine e ci dicono noi ritorniamo nelle case, eccetera. Stiamo, diciamo, in una situazione di emergenza che faccio scegliere, chi può rimane nelle tende che stiamo approntando, i letti, i materassi, eccetera, e altri, chi vuole andare negli alberghi della Riviera, abbiamo telefonato, chi ha disponibilità di posti letto ci hanno assicurato che ci sono, quindi niente, adesso siamo in una fase di che non sappiamo quando ne vanno via, se ne vanno via, chi rimane qui, siamo un po' in una situazione ancora, diciamo, caotica, ma la certezza è che la paura è tanta, insomma, ecco. Non è difficile immaginarlo, sindaco Petrucci, ci dispiace veramente, è una cosa che sconcerta, perché dopo il 24 agosto si sperava di essersi un po' buttati alle spalle, nonostante lo sciame che continuava, no? Noi avevamo smantellato tutte le tendopoli e quasi si ricomincia da capo, è dura proprio, una situazione, un macello, guarda. Sindaco Petrucci, come sto dicendo anche agli altri sindaci, sa che naturalmente i suoi cittadini contano su di lei, quindi mi raccomando. Stiamo in prima linea. In prima linea. Speriamo di, vista anche l'età non troppo giovane mia, di resistere. Reggerà. Perché come dice lei, noi siamo montanari, siamo tosti, però insomma ci stanno logorando. Noi fino al terzo grado manco ce ne accorgevamo più. Ma queste sono briscole di sesto grado, quindi. Sindaco Petrucci, un abbraccio anche a lei, un abbraccio, mi raccomando. Grazie. Un altro sindaco adesso, il sindaco di Ascoli, sempre nelle Marche, Guido Castelli. Sindaco Castelli, buonasera. Voi lì ad Ascoli naturalmente avete sentita fortissima anche voi, perché arrivano messaggi qui da varie parti d'Italia, addirittura un ascoltatore da Pordenone in Friuli, Alberto, dice la seconda scossa è stata avvertita anche qui, quindi possiamo immaginare dalle vostre parti, sindaco, no? Sì, è stata veramente una scossa fortissima che già tra l'altro ha riguardato una comunità profondamente, come dire, scossa dalla precedente, quella delle 7:30, certo. Quindi la gente si è rimessata su strada, il clima era un po' da tregenne, ora non voglio come dire descrivere in maniera troppo orrorifica la situazione, però pioggia battente, paura dilagante, e devo dire che al di là di questo abbiamo anche rilevato un crollo modesto di un muro interno di una casa popolare che si trova in un quartiere della nostra città, e quindi abbiamo favorito l'evacuazione degli abitanti, così come per dire che obiettivamente domani, quando ci sarà il sole, dovremo valutare la situazione complessiva. Io avevo già, dopo la prima scossa, disposto la chiusura a titolo precauzionale delle scuole, e quindi ulteriormente il fenomeno, insomma, delle 9:25 mi ha confortato in questa decisione. Guardi, il vero problema è che la gente è davvero impaurita, perché lo sciame, lo diceva prima Leandro, la nostra roccia inerpata è stato continuo in queste ultime settimane, però mai si era raggiunto lo zenith di una scossa che obiettivamente ha fiaccato le resistenze residue, quindi Ascoli Traffic Tilt, sì. Dobbiamo dirlo, anche se non voglio essere allarmista, ma Castelli, mi perdoni, c'è il capo della Protezione Civile Curcio che sta facendo la conferenza stampa, se vuole sentire qualche parola anche lei, se rimane in collegamento, se può. Anche in qualche altra situazione, ovviamente la parte più delicata è stata anche quella della viabilità. La Salaria è stata richiusa, la zona di Pescara. La Salaria è stata chiusa, la strada tra Roma e le Marche. Del Tronto, anche la viabilità alternativa ha avuto un momento di chiusura. Adesso mi hanno appena comunicato che è stata riaperta ai mezzi di soccorso e a breve verrà riaperta anche diciamo per le altre vetture, anche se io appunto sconsiglio assolutamente di muoversi, se non in casi assolutamente è chiaro, sconsiglia di muoversi il capo delle condizioni meteo sono difficili anche per le condizioni meteo. Sindaco Castelli, sindaco di Ascoli, grazie anche a lei e buon lavoro, insomma, speriamo sia una notte il più possibile. Qui abbiamo aperto, ovviamente riaperto il comitato di coordinamento, il COC, abbiamo anche qualche difficoltà connessa alle frane, perché già alcune delle nostre colline erano imbibite di acqua per via. E infatti lo sta spiegando anche il capo della Protezione Civile ancora, no? Tornate come erano prima. Per quanto riguarda la parte più importante, cioè la parte sanitaria, si sono registrati alcune persone che anche dei malori, sì, abbiamo un ferito che ci è stato comunicato dal 118 delle Marche. Inizialmente sembravano fosse due, invece adesso sembra un ferito lieve, e attualmente il Corpo Nazionale sta lavorando su un paio di situazioni di soccorso tecnico urgente, di cui vi potremo dire tra un po'. Stanno lavorando in particolare su Camerino. Sindaco Castelli, quindi ha sentito adesso appunto il capo della Protezione Civile Curcio, sta spiegando un po' la situazione sia per quanto riguarda la viabilità, le misure che stanno approntando, il soccorso alle persone evacuate naturalmente, e poi ha parlato giusto appunto di qualche valore. Sindaco Castelli, io la lascio al suo lavoro difficile di questa notte e la ringrazio. Grazie. Ci mancherebbe, grazie allora, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a lei soprattutto. Sentiamo ancora Curcio. Non ci risegnalano situazioni particolari nella zona del Reatino. Ci sono state nella zona rossa i crolli più imponenti, più forti. Beh, potete immaginare che adesso anche con il buio non è semplicissimo fare queste valutazioni. Le strutture operative ci dicono certamente, anche i sindaci che sono stati registrati soprattutto in zona rossa, ma certamente ci saranno stati anche altri crolli. Adesso dobbiamo vedere anche con la luce del sole, perché attualmente non è semplicissimo fare valutazione, e poi in questi casi subito dopo una scossa si cerca di andare in cautela, quindi si delimita e poi domani si faranno le valutazioni. L'importante adesso è le persone, adesso è tornare ancora una volta ad occuparci delle persone, che sono il punto cruciale e fondamentale. Chiaro, stiamo sentendo il capo della Protezione Civile Curcio. Ovviamente potete immaginare quanto possa essere sentita una situazione come questa. Tra le altre cose, in alcune aree eravamo già partiti per le soluzioni temporanee, per cui adesso vedremo come dare soluzioni, però ecco, l'importante è comprendere che queste persone hanno subito nuovamente un impatto con il sisma che insomma, è difficile anche da, come dire, da gestire singolarmente. Noi siamo, ripeto, in contatto con i presidenti delle regioni in particolare, ma anche con i sindaci, questi li abbiamo sentiti direttamente, e ovviamente stanno gestendo la loro popolazione. Ci sono zone difficili da raggiungere in questo momento tra gli altri? Sì, ci sono delle zone difficili perché questi due sismi in sequenza hanno, come dire, esasperato alcune situazioni che già c'erano, ma ne hanno anche create di nuove. E i mezzi di soccorso comunque sono arrivati dappertutto, il Corpo Nazionale è presente in tutti i centri e si sta ovviamente cercando di rendere agibile le aree dove la difficoltà a raggiungere c'è. Però, ripeto, ricordiamoci che siccome si tratta di ore notturne, anche, come dire, la messa in sicurezza piuttosto che la valutazione è molto complicata perché non si ha il quadro definito di quello che c'è intorno. Avete avuto segnalazioni di persone bloccate nelle case? Io ho sentito sindaci in collegamento che parlavano soprattutto di anziani che avevano avuto domande al capo della Protezione Civile Curcio. Sì, ci sono state queste segnalazioni, chiaramente non arrivano, come dire, qui le segnalazioni, ma noi ne prendiamo atto e queste si stanno cercando di dare risposta con le strutture operative laddove arrivano le segnalazioni che lei faceva riferimento. Io direi che potremmo aggiornarci ad un altro punto stampa che potrebbe essere intorno a mezzanotte. Grazie. Quindi arriveranno poi altri aggiornamenti, giustamente come diceva il capo della Protezione Civile Curcio, che ha un po' spiegato la situazione attualmente, ha spiegato che adesso è buio, piove e quindi è difficile fare delle valutazioni precise. Fra l'altro adesso c'è ancora una dichiarazione del sindaco Mauro Falcucci di Castel Sant'Angelo sul Nera, che abbiamo poi sentito qui in collegamento con Effetto Notte, che adesso dice c'è stata un'enorme nuvola di polvere, ho visto crolli il centro storico, immerso in una nuvola di polvere e ci sono danni anche nelle varie frazioni, come anche ci spiegava. Voi continuate, se volete, con i vostri messaggi da varie parti d'Italia, per esempio dice Fabio da Pesaro, ero sul camion, ho cominciato a tremare la terra, ho preso paura e poi ciao amici, sono a Forlì in attesa di carico, abbiamo sentito una fortissima scossa, mentre un altro ascoltatore o ascoltatrice, lunga paurosa scossa a Firenze, grande vicinanza ai tremendamente colpiti. Ross si firma 349-238-6666 se volete per i vostri messaggio WhatsApp oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Pausa e ritorniamo insieme tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci di nuovo insieme, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, per questa puntata che è diventata di Effetto Notte man mano speciale, due ore di Effetto Notte, tutta dedicata con la scaletta sconvolta a causa appunto di quello che è successo stasera. Prima scossa di terremoto molto forte, 5.4 di magnitudo alle 19.11 stasera, che è stata avvertita soprattutto in gran parte dell'Italia centrale con epicentro nelle Marche a Castel Sant'Angelo sul Nera, ma anche dalle vostre testimonianze si capisce che è stata veramente forte e sentita addirittura da quando che scrivete da Pordenone a Napoli, a Verona, al 349-238-6666, state scrivendo molti messaggi, così anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, per esempio dice questo ascoltatore, sentito il terremoto a Legnago in provincia di Verona, poi sono Giovanni, un autotrasportatore, sono qui vicino a Visso, che fa parte appunto dell'area dell'epicentro, nelle Marche, ho messo quattro bambini dentro il camion al riparo al caldo, non ho visto mai una cosa del genere, perché ci siamo collegati con vari sindaci di quelle zone, dicendo che purtroppo di nuovo le persone, oltre che a vivere grandi momenti di panico, di nuovo, di paura, e saranno costretti a passare le notti fuori da casa. Fabrizio, abbiamo paura, non si può vivere così. Agosto, qui ancora ci sono scene di panico, dice Fabrizio, forse peggio anche di quella d'agosto, la scossa. Poi Loredana che dice non mollate, siamo vicino a tutti voi. Patrizio, sentite la scossa delle 21:18, la seconda anche a Sacile in provincia di Pordenone. Poi la seconda scossa abbiamo sentito molto bene anche a Fiumicino, diceva ancora un altro ascoltatore, non è mai successo. Si è sentito anche a Venezia, un altro messaggio questo. E poi Piero da Roma, Roma via dei Fiorentini, eravamo in riunione per la seconda scossa, tutto dondolava, il panico. E così molti altri vostri messaggi che stanno compartecipando insomma di questa brutta serata che stanno passando soprattutto coloro che avevano già vissuto questa situazione e di nuovo colpiti, e anche naturalmente altri centri. Chiuse le scuole fra l'altro domani di Rieti, Terni, L'Aquila, Assisi, Foligno. Man mano arrivano gli aggiornamenti e ci aggiorniamo a proposito con Maria Luisa Pezzali, che man mano ci racconta. Mi pare che anche la stampa internazionale se ne stia occupando, no? Era stata sensibile ovviamente a quella del 24 agosto e di nuovo. Sì, Maria Luisa. È così, Roberta, la notizia è in home page praticamente su tutti i principali siti di informazione anche stranieri, CNN News, two powerful quakes hit Italy, e la notizia è proprio in primo piano. Anche Fox News di taglio centrale ha la notizia sul terremoto, ma poi anche in Francia Le Figaro, anche qui taglio centrale, quindi assolutamente grande rilievo alla notizia. Un minimo di rassegna anche per l'Italia, partendo dal Sole 24 Ore, notizia ovviamente in primo piano, vengono riportate il virgolettato, le parole che tanto ci hanno colpito del sindaco di Ussita che abbiamo ascoltato insieme, Roberta, ma Marco Rinaldi, il nostro paese è finito. E poi ovviamente anche Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica, insomma tutte le notizie di apertura. Ricordiamo che il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha confermato che il bilancio per ora appunto fortunatamente fermo, si sono registrati alcuni malori, abbiamo un solo ferito lieve comunicato dal 118 delle Marche, inizialmente sembravano due, invece appunto è uno. E poi ricordiamo anche, in base al monitoraggio della Protezione Civile, che la situazione critica in questo momento da coordinare a livello appunto dei soccorsi e delle operazioni anche di allestimento per accogliere gli sfollati, nessuno in queste zone dormirà ovviamente nelle abitazioni questa notte, certo. Oltre ai comuni che abbiamo già citato tante volte dell'epicentro, quindi Visso, Castelsaltangelo sul Nera, Ussita e Preci, situazione critica anche a Camerino, Pieve Torina, Pieve Bovigliana, Polverina. Queste sono le comunicazioni della Protezione Civile, Roberta. Grazie Maria Luisa Pezzali. Ora ci colleghiamo con Roma, con la nostra Betta Fiorito, perché anche a Roma naturalmente è stata avvertita fortemente tutte e due le scosse, mi pare, Betta Fiorito. Tra l'altro anche la Farnesina, il Ministero degli Esteri, è stato evacuato per precauzione, no? Ciao Betta. Sì, allora, ciao Roberta. Dunque, la prima scossa è stata alle 7:10, 7:11. Io, per quanto mi riguarda, ero in sala stampa a Montecitorio, quindi al piano terra di un edificio rinascimentale che ha visto molti terremoti, perché la parte vecchia del palazzo, cioè di Montecitorio, è quella più rinascimentale del vecchio Tribunale dei Papi, e si è sentita al piano terra, quindi tutti quanti ci siamo guardati dicendo: ma avete sentito? E tutti sì, allora sarà una cosa abbastanza forte. La seconda volta, per quanto mi riguarda personalmente, come la maggior parte dei romani, verso dopo le 9 ero a casa al terzo piano, e lì è stata ancora più intensa, ancora più forte, soprattutto un pochino più lunga, e ti chiedi, anche se ti metti sotto il pilastro, quanto durerà ancora? Ma perché non finisce? Perché sono attimi che non finiscono mai. E comunque, per quanto riguarda la città, bisogna subito dire che già dalla prima scossa la Farnesina era stata evacuata e che erano in corso dei controlli dei vigili del fuoco a scopo precauzionale, e ricordiamo la prima scossa era di minore intensità, e adesso si sa che sono crollati comunque alcuni cornicioni e ci sono crepe negli edifici. Ricordiamo che a Roma, per esempio, c'era stato già un edificio crollato vicino al Teatro Olimpico, non certo per il terremoto, quindi in una città dove molti edifici sono già comunque, non dico instabili, però vecchi, che comportano anche delle grosse manutenzioni, avere una scossa così forte può provocare anche delle crepe, Roberta. Certo. Betta, comunque lì a Roma adesso mi pare che la situazione sia abbastanza tranquilla, no? No, Roma, noi sappiamo che è una zona che non viene interessata da quello che sta succedendo lungo la dorsale appenninica, no? Perché questi terremoti, come qualsiasi sismologo potrà confermare, sono causati da una faglia che si sta staccando e da una parte dell'Italia che sta andando verso l'Albania, se così vogliamo dire, no? Sì, diciamo. E infatti tant'è vero che ad Amatrice si sta cercando già una seconda faglia, no? Più intensa, che si è creata. Quindi Roma è una zona tra virgolette antisismica, però il fatto che in una città così grande, con degli edifici così disastrati alcune volte, sappiamo che la maggior parte della città è stata costruita nel sacco di Roma, no? Negli anni 60 e 70, è chiaro che qualsiasi piccola lieve scossa potrebbe provocare danni consistenti, insomma. Potrebbe provocare danni consistenti e provoca sicuramente il panico dei romani. Io vedo sui social network post di amici e non amici che dicono: ma allora mi prendo lo Xanax, stanotte non dormiamo, insomma il livello di panico è molto certo. forte. Grazie Betta Fiorito da Roma. Grazie. Ciao Betta, ciao, buonanotte. E vi ricordo tra l'altro che il capo della Protezione Civile Curcio, che ha tenuto una conferenza stampa poco fa che abbiamo fatto in buona parte sentire, vi ricordo che ha detto che sconsiglia assolutamente di muoversi in quelle zone se non per strettissime necessità, e che i mezzi di soccorso sono arrivati a questo punto dappertutto, che ora è importante occuparsi delle persone naturalmente. E poi domani anche questa notizia delle scuole chiuse in tutto l'Abruzzo, quindi avevano iniziato L'Aquila e Pescara ad annunciarlo, adesso in tutto l'Abruzzo domani scuole e università chiuse, poi anche a Rieti, a Terni, ad Assisi, a Foligno, man mano stanno arrivando questi aggiornamenti. E a Ussita, per il terremoto, tratte in salvo due anziane. Abbiamo detto che per il momento di feriti si parlava soltanto di un ferito lieve, quindi questa per il momento è già una buona notizia. Ora vorrei farvi sentire, a proposito di Ussita, il sindaco Marco Rinaldi, intervistato da Daniele Zinni. Che danni ci sono stati al paese? Grossissimi, colossali, il patrimonio immobiliare è praticamente lesionato e massacrato all'80%. Bisogna fare dei conti, vedere. Ma... E per quello che riguarda le persone, ci sono feriti? Penso vittime? No, non dovrebbero esserci, perché la scossa delle 19 le aveva tirati tutti fuori di casa. E adesso siete ancora tutti in giro? Siamo tutti, se lo puoi immaginare, scusi che domanda mi fa, può pensare che stiamo a casa? Guardi, mi lasci lavorare, cioè i vigili del fuoco, grazie. Insomma, capiamo anche la tensione naturalmente che stanno vivendo i sindaci, in particolare in questo momento, oltre alla cittadinanza, i sindaci anche che devono prendere decisioni, hanno grosse responsabilità. A Camerino crolla, Camerino nelle Marche, crolla il campanile su una palazzina, e questo è un aggiornamento arrivato in questo momento. Ora invece vorrei sentire Daniele Morini di nuovo, Daniele Morini che ha raggiunto velocemente Visso, che fa parte di questa zona rossa, di questa, dell'epicentro, insomma, nelle Marche. Daniele, come sta proseguendo il tuo cammino tra le persone, tra le macerie lì a Visso? Sì, ecco, purtroppo siamo ancora bloccati a un chilometro circa da Visso, perché con fughe di gas e problemi con i cavi della corrente elettrica non ci hanno bloccato, non ci fanno proseguire. Vediamo persone che escono dalle abitazioni, quelle più o meno lesionate, che vengono, si allontanano cercando di capire dove trascorrere la notte. Due persone anziane che si sono allontanate proprio ora, qui dove stiamo noi, alle porte di Villa Sant'Antonio, e tra l'altro ha ricominciato a piovere a tratti anche in maniera piuttosto forte, e continuano le scosse che a volte sono movimenti più pronunciati del terreno, a volte anche dei semplici boati, insomma sembra quasi un tuono, ma invece è una frattura appunto del terreno, il classico rumore della scossa di terremoto. Adesso ci sono squadre appunto sia dei collegamenti, sia dei gestori telefonici che di quelli dell'energia elettrica che stanno tagliando i cavi che attraversano la strada, soprattutto quelli dell'alta tensione. Si cercano mezzi in zona per poter liberare la strada dalle macerie. Qui appunto nel tratto di 400-500 metri ci sono, vediamo, almeno 4-5 case crollate al centro della strada, e quindi la cosa più difficile in questo momento appunto è i collegamenti, perché è difficile anche solo raggiungere le zone dell'epicentro, sia per noi ma soprattutto per le forze dell'ordine, ambulanze che si devono fermare di fronte alle macerie delle case crollate. Si sta cercando ancora casa per casa per verificare che tutti siano usciti dalle abitazioni, che nessuno sia rimasto sotto. Grazie Daniele Morini, sarà lunga la notte anche per te, intanto buon lavoro, buon proseguimento Daniele. Grazie. Dario Ricci, eccoci qua. Quindi sulle partite anche appunto, non so se Firenze è ancora rimasta sospesa la pioggia. No, Firenze invece si è ripresa a giocare, siamo al 60° dopo la lunga sospensione per la pioggia, si è ripresa a giocare, tra l'altro il Crotone è in vantaggio per ora per 1-0 sulla Fiorentina. Sono terminate invece tutte le altre gare, quindi ti do i risultati a partire dall'1-1 tra il Chievo e il Bologna, la vittoria dell'Inter per 2-1 sul Torino, e proprio il contestato e controverso capitano nerazzurro Mauro Icardi che salva di fatto con una doppietta la panchina di De Boer, goleada della Juventus 4-1 alla Sampdoria, doppietta di Chiellini, così come doppietta di Ciro Immobile nel 4-1 della Lazio sul Cagliari, 2-0 poi anche il Napoli vince, l'altra big vincente questa sera, di partenopei con un netto 2-0 superano l'Empoli, la vittoria dell'Atalanta sul campo del Pescara per 1-0 con la contestazione che ricordavamo, no? La curva pescarese che a un certo punto si è svuotata proprio perché gli ultra abruzzesi chiedevano la sospensione della gara per il terremoto, ma la partita è poi arrivata al 90° e poi non ultima c'è la Roma che passa sul campo del Sassuolo per 3-1 trascinata ancora da Dzeko e rimane nella scia della Juventus. Grazie Dario Ricci. Maria Luisa Pezzali che ci ha aggiornato finora. Maria Luisa. Sì, io se sei d'accordo Roberta farei un piccolo riassunto, sì. Ripeterei un po' i punti fermi della serata, i dati di cronaca che abbiamo. La prima scossa alle 19:11, 5.4 la magnitudo, la seconda alle 21:18, ancora più forte, alle 5.9 la magnitudo, stesso epicentro i comuni di Castel Sant'Angelo sul Nera, provincia di Perugia, così come quelli di Visso e Ussita e provincia di Perugia, quest'ultima provincia di Macerata i primi. Qualche malore, un solo ferito a Visso, nelle Marche appunto, ha confermato il capo della protezione civile Curcio in conferenza stampa, lo abbiamo ascoltato, rimandando ad un ulteriore aggiornamento verso mezzanotte. Abbiamo sentito il racconto dei sindaci di tutti questi paesi, li abbiamo ascoltati insieme, l'emozione, la paura di un territorio così duramente colpito dal sisma del 24 agosto scorso, e a quel sisma, hanno spiegato gli esperti, è collegata questa nuova ondata di scosse. A te Roberta. Grazie Maria Luisa Pezzali, grazie per questi aggiornamenti, grazie Maria Piera Ceci, a Cristian Goldoni, alla parte tecnica Roberta Frisani. Noi ci riaggiorniamo molto brevemente alle 11:00.